sono soltanto un uomo. Dove vado non dipende da me, è un discorso complicato. Ho una madre, dei fratelli, una donna, ho dei figli con il mio nome. Con il mio nome. C'è una guerra che mi fa paura, una crisi che non si risolve. Vedo gente che sta male, come me, come me. Se guardo in alto vedo sfocato, se guardo in basso rischio di cadere giù. E sto correndo, ma sono fermo, mi sto muovendo, però rimango immobile. Per il mondo immobili, nessuno si sposta. Dio, da quale parte, l'infinito mi confonde, da quale nave ci ha visto arrivare, l'universo è sempre in onda, sempre uguale, sempre uguale, se guardo in alto vedo sfocato, se guardo in basso rischio di cadere giù, e sto correndo, ma sono fermo, mi sto muovendo, però rimango immobile. Sta crescendo, sta crescendo, sta crescendo.